già vissuto sette vite, non ne ricordo una senza te. Sul frigo quante calamite che testimoniano di me, di te. Nascondi bene le ferite, quelle che conosco solo io. Non me la immagino una fine. No, no, no, non mi passa questa voglia di chiamarti quando torno a casa tardi, che ho bisogno di raccontarti. No, non mi passa questa stupida cosa di amarti mentre dormi, mentre piangi, mentre sogni, mentre parli. Ti va di tenermi in piedi se cado nei miei pensieri? Non vedi che siamo uguali, che siamo soli come aeroplani? Ma stringiti a me se tremi, non darti limiti e freni. Distanti siamo incompleti, torniamo soli come pianeti che girano, girano, girano, come aeroplani che volano, volano. Ho camminato sette miglia prima di arrivare qui da te. È strano sentirsi in famiglia, anche se siamo solo io e te. E ogni rumore si assottiglia quando mi concentro sui respiri tuoi, sui discorsi che fai. No, no, no, non mi passa il bisogno di cercarti quando sono in mezzo agli altri, coi battiti accelerati. E no, non mi passa questa stupida cosa di amarti mentre dormi, mentre piangi, mentre sogni, mentre parli. Ti va di tenermi in piedi se cado nei miei pensieri? Non vedi che siamo uguali, che siamo soli come aeroplani? Ma stringiti a me se tremi, non darti limiti e freni. Distanti siamo incompleti, torniamo soli come pianeti. Che girano, girano, girano, come aeroplani che volano, volano, che girano, girano, girano, come aeroplani che